Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Una mattina d'inverno, fuori la neve cadeva nella luce fosca, K sedeva nel suo ufficio già stanco morto, sebbene fosse ancora presto. Per proteggersi almeno dagli impiegati subalterni, aveva incaricato il commesso di non lasciare entrare nessuno di loro perché era occupato con un lavoro importante. Ma invece di lavorare, si girava sulla sua seggiola, spostava adagio degli oggetti sul tavolo, poi, senza rendersene conto, lasciò il braccio disteso sul piano e rimase immobile a capo chino. Il pensiero del processo non lo abbandonava più. Aveva spesso pensato se non sarebbe stato bene preparare una difesa e presentarla al tribunale. Voleva esporvi una breve descrizione della sua vita e chiarire, a proposito di ogni fatto in qualche modo più importante, le ragioni del suo comportamento, se, secondo il suo giudizio attuale, il suo modo di agire era da riprovare o da approvare, e quali motivi poteva addurre in un caso o nell'altro. I vantaggi di una tale difesa rispetto alla pura e semplice difesa dell'avvocato, del resto neppure lui ineccepibile, erano indiscutibili. K non sapeva nulla delle iniziative dell'avvocato. Non dovevano essere molte. Già da un mese non lo aveva più convocato e neppure uno degli incontri precedenti aveva dato a K l'impressione che quell'uomo potesse ottenere molto per lui. Soprattutto non lo aveva affatto interrogato a fondo. E invece c'era tanto da interrogare. K aveva la sensazione che lui stesso sarebbe stato capace di porre tutte le domande necessarie. L'avvocato invece, anziché interrogare, discorreva per suo conto. Di tanto in tanto rivolgeva a K qualche vuoto ammonimento, come si rivolgono ai bambini. Discorsi inutili, noiosi, che K pensava di non pagare un centesimo al momento della parcella. Quando l'avvocato riteneva di averlo abbastanza umiliato, riprendeva di solito a dargli un po' di coraggio. In tutto in parte aveva vinto, gli raccontava, parecchi processi affini al suo. Processi che, se anche in realtà non erano forse difficili come quello, esteriormente offrivano ancor meno speranze. Aveva lì, nel cassetto, una lista di quei processi. E così dicendo batteva su un cassetto qualunque. Purtroppo non poteva mostrare i documenti, si trattava di segreti di ufficio. Ciò nonostante, la grande esperienza che egli aveva acquisito con tutti quei processi andava naturalmente a profitto di K. Lui aveva, naturalmente, cominciato subito a lavorare e la prima memoria era già quasi pronta. Era una cosa molto importante, perché la prima impressione prodotta dalla difesa spesso influiva su tutto l'andamento del processo. Purtroppo, però, doveva richiamare al riguardo l'attenzione di K. A volte succedeva che il tribunale non leggesse affatto le prime memorie. Venivano passate semplicemente agli atti e si faceva notare che per il momento l'interrogatorio e l'osservazione dell'imputato erano più importanti di qualsiasi cosa scritta. Si aggiunge, se l'istante diventa importuno, che prima della decisione, appena il materiale è tutto raccolto, si esamineranno tutti gli atti, quindi anche quella prima memoria, naturalmente nel contesto generale. Ma purtroppo neppure questo il più delle volte risponde a verità. La prima memoria finisce di solito fuori posto o va perduta. E se anche conservata sino alla fine, nessuno la legge, secondo quanto l'avvocato, d'altra parte, ha appreso solo per sentito dire. Tutto ciò è da deplorare, ma non è del tutto ingiustificato. K dovrebbe tenere presente che la procedura non è pubblica. Può diventare pubblica se il tribunale lo ritiene necessario, ma la legge non prescrive la pubblicità. Perciò anche i documenti del tribunale, soprattutto l'atto di accusa, non sono accessibili all'imputato né al suo difensore. Quindi di solito non si sa o non si sa bene contro cosa si debba dirigere la prima memoria. E questa, perciò, solo per caso può contenere qualche elemento rilevante per la causa. Thank you. Memorie realmente pertinenti e probanti possono essere elaborate solo in seguito, quando nel corso degli interrogatori dell'imputato i singoli capi di accusa e le loro motivazioni emergono con maggiore chiarezza o possono essere indovinati. Stando così le cose, la difesa, naturalmente, si trova in una situazione molto sfavorevole e difficile. Ma anche questo è voluto. La difesa, infatti, non è concessa, a dire il vero, dalla legge, ma soltanto tollerata. E non è neppure pacifico che dal relativo articolo di legge si possa almeno dedurre la tolleranza. A rigore, quindi, non ci sono avvocati riconosciuti dal tribunale. Tutti quelli che si presentano davanti a questo tribunale come avvocati sono in fondo soltanto avvocatucci. Questo, naturalmente, ha un effetto degradante su tutta la categoria. E se K si recherà una volta negli uffici del tribunale, potrà guardarsi, tanto per aver visto anche questa, la stanza degli avvocati. Probabilmente rimarrà esterrefatto dalla compagnia che vi troverà raccolta. Già la stanza stretta, bassa, loro assegnata, rivela il disprezzo che il tribunale ha per quella gente. La stanza riceve luce solo da un finestrino posto tanto in alto che chi voglia guardare fuori, col risultato del resto di riempirsi il naso del fumo di un camino posto proprio lì di fronte e di annerirsi il viso, deve prima cercarsi un collega che lo prenda sulle spalle. Nel pavimento di questa stanza, per addurre solo ancora un esempio relativo al suo stato, è ormai da più di un anno un buco non tanto grande da far passare un uomo, ma grande abbastanza per sprofondarci con una gamba. La stanza degli avvocati si trova al secondo piano del solaio. Se dunque uno casca in quel buco, la sua gamba pende al primo piano, e precisamente nel corridoio in cui aspettano gli imputati. Non si esagera dicendo che nei circoli degli avvocati queste condizioni sono definite scandalose. Reclami all'amministrazione non hanno il minimo successo, anzi, agli avvocati è severamente proibito di far cambiare qualche cosa nella stanza a proprie spese. Ma anche questo trattamento degli avvocati ha la sua ragione. Si cerca di escludere la difesa, tutto deve dipendere dall'imputato stesso. Un punto di vista non cattivo, in fondo. Ma niente sarebbe più errato del dedurne che in questo tribunale gli avvocati sono superflui per l'imputato. In nessun altro tribunale, invece, sono necessari come in questo. Il procedimento, infatti, è per solito segreto non solo per il pubblico, ma anche per l'imputato. Naturalmente, fin dove è possibile, ma è possibile in misura molto ampia. Neppure l'imputato, infatti, ha accesso ai documenti giudiziari. Ed è molto difficile ricavare dagli interrogatori su quali documenti si basino, ma difficile specialmente per l'imputato che è confuso e ha mille preoccupazioni a distrarlo. È qui che interviene la difesa. Di solito i difensori non possono essere presenti agli interrogatori, perciò, dopo gli interrogatori, possibilmente, anzi, sulla soglia stessa della sala di udienza, debbono cercare di sapere dall'imputato tutto il possibile sull'interrogatorio e cavare da queste informazioni, a volte già molto sbiadite, quanto può giovare alla difesa. Ma la cosa più importante non è questa, perché in tale modo non si può venire a sapere molto, sebbene anche qui, naturalmente, come dappertutto, una persona capace può arrivare a saperne più di altre. Più importanti di tutto rimangono però i rapporti personali dell'avvocato. In essi è il massimo valore della difesa. Ora K ha già desunto dalle sue esperienze che l'organizzazione più bassa del tribunale non è proprio perfetta, che mostra funzionari infidi e corruttibili, fatto che in una certa misura apre spiragli nella rigorosa chiusura del tribunale. Qui fa ressa la maggior parte degli avvocati. Qui si corrompe e si spia. Almeno un tempo avvenivano persino casi di furto di documenti. È innegabile che in tal modo si possano ottenere risultati momentanei, alcuni dei quali persino favorevoli in modo sorprendente per l'imputato. Di questo vanno gloriandosi anche quei piccoli avvocati e attirano nuovi clienti, ma per l'ulteriore svolgimento del processo ciò significa niente o niente di buono. Ma un vero valore hanno solo oneste relazioni personali e precisamente con funzionari superiori, con ciò intendendo, naturalmente, solo funzionari superiori dei gradi inferiori. Così soltanto si può influire, anche se sulle prime in modo solo impercettibile, ma in seguito con sempre maggiore evidenza, sull'andamento del processo. Solo pochi avvocati, naturalmente, ci riescono. E su questo punto la scelta di K è stata molto buona. Forse solo uno o due avvocati potrebbero vantare relazioni come quelle del dottor Huld. Questi non si curano però di chi frequenta la sala degli avvocati e non hanno nessun rapporto con quell'ambiente. Tanto più stretti sono invece i legami con i funzionari del tribunale. Non è neppure sempre necessario che il dottor Huld vada in tribunale, aspetti nelle anticamere la comparsa casuale dei giudici istruttori e ottenga, a seconda del loro umore, un successo il più delle volte solo apparente, forse neppure quello. No, K lo aveva visto da sé. I funzionari, a volte molto alti, vengono da soli, danno spontaneamente informazioni chiare o almeno facili da interpretare, discutono la fase successiva del processo, in certi casi si lasciano persino convincere e accettano volentieri l'opinione di un terzo. Su quest'ultimo punto, però, non bisogna fidarsi troppo di loro. anche se esprimono in modo deciso la loro nuova opinione, favorevole per la difesa, è magari possibile che vadano dritti nel loro ufficio e il giorno dopo emettano un'ordinanza del tutto contraria. Anzi, forse molto più severa nei confronti dell'imputato di quanto fosse la loro prima intenzione, dalla quale sostenevano di essersi con risolutezza allontanati. Contro questo, naturalmente, non si può lottare, perché quello che hanno detto a quattro occhi è appunto detto a quattro occhi e non ammette conseguenze di carattere pubblico, anche se la difesa non dovesse cercare per altre ragioni di conservarsi il favore di quei signori. D'altra parte è anche vero che quei signori non sono in rapporto con la difesa, unicamente con una difesa, si capisce, competente, soltanto per filantropia o per sentimenti di amicizia, quanto piuttosto perché, in un certo qual modo, sono anch'essi dipendenti da quella. Proprio qui appare evidente l'aspetto negativo di un'organizzazione giudiziaria che fin dal principio stabilisce il procedimento segreto. I funzionari non hanno contatti con la popolazione. Sono bene preparati per i processi comuni, di media importanza. Processi di questo genere corrono quasi da sé sul loro binario, chiedendo solo di tanto in tanto una spinta. Ma di fronte ai casi più semplici, come anche a quelli particolarmente difficili, rimangono spesso smarriti. Costretti come sono giorno e notte dentro la loro legge, non hanno una giusta comprensione dei rapporti umani. E tale mancanza si fa molto sentire nei casi sopradetti. Si recano allora per consiglio dall'avvocato, portandosi dietro un usciere con gli atti, di solito tanto segreti. Davanti a questa finestra si sarebbero potuti vedere alcuni di quei signori, dai quali nessuno se lo sarebbe aspettato, intenti a guardare in strada addirittura sconsolati, mentre l'avvocato al suo tavolo studiava gli atti per dare loro un buon consiglio. D'altra parte, proprio in simili circostanze, può vedersi come quei signori prendano la loro professione incredibilmente sul serio e come si disperino per difficoltà che per loro natura non sono in grado di superare. La gerarchia, i gradi del tribunale sono infiniti e neppure gli iniziati possono averne una visione completa. Ma il procedimento davanti alle corti è in genere segreto, anche per i funzionari più bassi, che non sono quindi quasi mai capaci di seguire nello sviluppo più avanzato le pratiche da loro trattate. La causa si alza spesso nel loro orizzonte senza che sappiano da dove viene e prosegue senza che sappiano per dove. A questi funzionari sfugge dunque l'insegnamento che si può ricavare dallo studio delle singole fasi del processo, dalla risoluzione finale e dalle sue motivazioni. Essi possono occuparsi soltanto di quella parte del processo delimitata per loro dalla legge e del seguito, del risultato cioè del loro lavoro, sanno di solito meno della difesa che, almeno di regola, rimane in rapporto con l'imputato quasi fino alla conclusione del processo. Anche in questa direzione, dunque, possono apprendere dalla difesa notizie preziose. Con questo quadro davanti, K non deve dunque stupirsi dell'irascibilità dei funzionari che a volte si manifesta, ognuno ne può fare l'esperienza, in maniera offensiva. Tutti i funzionari sono irritati anche quando sembrano tranquilli. Naturalmente, sono i piccoli avvocati a risentirne di più. Si racconta, per esempio, la storia seguente che ha tutta l'aria di essere vera. Un vecchio funzionario, persona buona, tranquilla, aveva studiato senza interruzione per un giorno e una notte una causa difficile. Questi funzionari, in verità, sono diligenti come pochi, e si era complicata specie per le memorie dell'avvocato. La mattina, dopo un lavoro di 24 ore probabilmente non molto fruttuoso, andò alla porta d'ingresso, si mise lì in agguato e cominciò a gettare per le scale ogni avvocato che voleva entrare. Gli avvocati si raccolsero sul pianerottolo lì in basso per consultarsi sul da fare. Da una parte non hanno un vero e proprio diritto d'accesso, non possono quindi procedere legalmente contro il funzionario e debbono anche guardarsi, si è già detto, a non mettersi contro la magistratura. D'altra parte, ogni giorno che non passano in tribunale è perso per loro e tenevano quindi molto a entrare. Alla fine si accordarono che avrebbero fatto stancare il vecchio. Continuarono a spedire su un avvocato che saliva le scale e poi, dopo una certa resistenza, ma solo passiva, si faceva buttare di sotto, dove veniva accolto dai colleghi. Passò così un'ora circa, finché il vecchio, del resto esaurito anche dal lavoro notturno, si stancò e ritornò al suo ufficio. Quelli in basso, sulle prime, non lo credettero e mandarono uno di loro a guardare dietro la porta se davvero non c'era più nessuno. Soltanto dopo entrarono e non ardirono probabilmente neppure di mormorare. Gli avvocati, infatti, e anche il più piccolo è in grado di conoscere almeno in parte la situazione, sono lontanissimi dal voler introdurre o imporre in tribunale qualche miglioramento, mentre quasi tutti gli imputati, e questo è molto significativo, persino gente molto semplice, non appena immessi nel processo, cominciano a pensare a proposte di miglioramenti e spesso sprecano così tempo ed energie che potrebbero essere spese molto meglio altrimenti. L'unica strada giusta è di accettare la situazione esistente. Anche se fosse possibile correggere alcuni particolari, ma è pregiudizio assurdo, nella migliore delle ipotesi si otterrebbe qualche cosa per i casi futuri, ma si farebbe a se stessi un danno incommensurabile, attirando su di sé l'attenzione particolare dei funzionari, sempre vendicativi. Mai attirare invece l'attenzione. Mantenersi tranquilli, anche se lo si fa di contraggenio. Cercare di capire che questo grande organismo giudiziario rimane, per così dire, perpetuamente in sospeso. E che se si cambia qualche cosa di propria iniziativa, ci si scava il terreno sotto i piedi e si può precipitare. Thank you.